Lunedì 8 febbraio 2010, non so se è il weekend che vi aiuta a concentrarvi, a stilare la vostra lista dei desideri. Sta di fatto che, avendo tutto @radio24.it, ma anche sul profilo Facebook, sono arrivate diverse liste di desideri di voi ascoltatori e quindi, visto che alla fine io vi propino sempre la mia, mi sembra giusto propinarvi anche le vostre. Prendere un appartamento a Londra, conoscere Takashi Murakami e comprare una sua opera, aprire un negozio di abbigliamento come dico io, andare in America e visitare i musei con le opere di Andy Warhol, andare al Polo Nord, in Australia e in Giappone, fare un safari e nuotare nell'oceano, apparire sulla copertina di Interview, visitare il Bread and Butter a Berlino, fare un giro in elicottero, inventare qualcosa, partecipare ad una Dakar, anche se da spettatore. Questi sono i desideri di Andrea dalla provincia di Venezia. Devo dire, Andrea deve essere un ascoltatore molto raffinato, nonostante i suoi 20 anni, perché dice: non sono molti punti, cioè quelli della lista, ma avendo solo 20 anni ho ancora tempo davanti. Però nonostante tutto, Andrea, dobbiamo ammettere che in redazione tutti quanti abbiamo strabuzzato tanti d'occhi quando tu ci hai citato la copertina di Interview, ad esempio, o questo Bread and Butter a Berlino. Ci perdonerai l'ignoranza, ma magari se ci dici anche un tantino cos'è, se qualcuno magari lo sa che cos'è il Bread and Butter a Berlino o dovunque si tenga, 349-238-6666 oppure vendo tutto @radio24.it.